buongiorno amiche e amici del Move to Groove. In queste giornate nere infauste con la TOD, leggende e grandissimi giocatori, noi diamo un augurio di buon compleanno al papà di tutti, il grande fondatore di questo bel giochino. Sì, perché 121 anni fa nasceva il professor James Naismith. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutte e a tutti, amiche e amici sportivi e non sportivi, come diceva Dan Peterson, nuovamente in diretta, tanti auguri ovunque egli sia, James Naismith, inventore di questo bel giochino, eh? E tante voci oggi saranno presenti in questo altrettanto dream team chiamato Move to Groove. Intanto già in diretta mattiniero e grande appassionato, seppur in giovane età, il nostro rookie of the year, si è definito il Rick Carlisle della situazione, per me è qualcosa di più, intanto però è già un bellissimo inizio. Buongiorno Pietro. Buongiorno Willy, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Cominciamo la nostra diretta dedicata a un saluto, un grandissimo atleta, oltre che un uomo con stile, classe, eleganza, dentro il parquet e fuori dal parquet. Parliamo di Walter Paul Davis. Nasce a Pineville, in Louisiana, nella parte sudorientale degli Stati Uniti, nel 1954. Purtroppo qualche giorno fa, esattamente il 2 novembre, ci ha lasciati improvvisamente causa arresto cardiaco. Ne parleremo con la voce di Jason Filippi, ex scout dell'NBA e ovviamente grande competenza e passione per la vera pallacanestro. Perché abbiamo voluto cominciare un po' un anticipo? Perché è un'edizione straordinaria, perché ovviamente il compleanno di James Naismith va onorato. Sai che era un allenatore e professore di ginnastica, allenatore di baseball, e non sapeva come allenare e portare i propri studenti atleti alla lezione, in quanto fuori vi era maltempo. Allora che fa? Prende due canestri per la raccolta delle pesche, le mette nell'angolo opposto della palestra e inizia la prima partita di pallacanestro, che finirà 1-0 ovviamente, perché magari all'epoca un po' straniti, ma si sono divertiti tantissimo a quanto pare. Riproviamo. E hanno detto, ancora, dai! Move to Groove, allora, Walter Davis, Move to Groove, c'è un'attinenza molto importante che va oltre l'aspetto tecnico, certamente, vi è quello emotivo. Il Move to Groove dà una continuità a una grandissima parte, sia in senso di impegno che in senso di estensione, della vita cestistica di tante appassionate e appassionati, in un periodo in cui la pallacanestro stava veramente esplodendo. È stato un periodo che ho vissuto a pieno, eh. Sono stati gli anni 80, dove diverse realtà, da Larry Bird a Magic Johnson a Julius Irving a Kareem Abdul-Jabbar, con uno sguardo al passato, da Bill Russell a Will Chamberlain. Ok, ho citato il podio, si può dire, o quasi, perché sarebbe ancora più esteso, ma tanti nomi meritano altrettanta attenzione, perché come vi ho detto sono stati anni fondamentali. Accorgendomi di questa mia passione, oltre che di questa mia attività appunto, e anche di una discografia legata al funk e al soul, perché non mettiamo assieme uno starting five o una formazione legata alla musica? E una dozzina d'anni fa, forse qualcosa di più, nacque il primo Move to Groove, che poi ha avuto diverse trasformazioni, da format è diventato rubrica, andava al martedì, il martedì è rimasto, però ha voluto riportare il rare groove degli anni 70 in comparazione con questi grandissimi campioni, che come ho detto hanno avuto la stessa importanza dei giganti che tutti conosciamo. Sono state annate fondamentali per trasformazione tecniche e atletiche, e quindi secondo me dare uno sguardo anche ad atleti che hanno avuto la stessa importanza delle stelle conosciute da tutte e da tutti è un motivo in più per avere una completezza anche emotiva, un esempio fuori dal parquet e dal campo di gioco. E indubbiamente The Greyhound, così veniva definito il levriero, per la sua eleganza, per la sua capacità di esprimere con un'estetica unica e speciale uno sport quando era bellissimo. A tutto ciò ha dato una colonna sonora, sarà una colonna sonora, almeno ho provato di farla di classe. Infatti partiremo subito con Grover Washington Jr., che già fa parte della sigla del Mood Groove, ma in questa interpretazione di Jammin aggiungerà alla nostra playlist un motivo di attenzione e di raffinatezza. Qui vi è una solo sulla interpretazione del brano di Bob Marley, The Jammin al sax tenor, che è qualcosa veramente che ricorda il volo in campo aperto di The Greyhound, Walter Davis. A tra poco, Mood Groove. Il talento era ricco come quando spuntano i funghi dopo una giornata di pioggia. Tutto bello concentrato, poco diluito. Io personalmente nel ruolo di guardia alla picca non ho visto così tanti fenomeni messi assieme nello stesso momento. Riguardo a Walter Davis, io lo considero insieme a Sidney Moncrief la guardia tiratrice più completa dell'era pre-Michael Jordan. E soprattutto tra i primi tre per eleganza sul campo insieme a Marcus Johnson e al grande Dr. J. Julius Erving. Arrestare il contralto di Grover Washington Jr., The Jammin. Sarà sarà immarcabile anche per gli angeli del paradiso cestistico The Greyhound, e riprende il tema dopo questo volo fantastico di grande classe in playlist. Allora Paolo, che è in compagnia per il nostro Dream Team, scusate, tra l'altro parliamo di paradiso e abbiamo Pietro e Paolo, quindi c'è un aspetto, come ho già detto, anche sacro quest'oggi all'interno del nostro Mood Group. Pietro, vi è qualcosa che ti accomuna con Walter Davis? Siete stati tutti e due Rookie of the Year, ti rendi conto che onore che lui hai? Nell'ottano 76, io nel 2023, passano quei due anni però d'altronde. E insomma, non è una colpa la differenza anagrafica, del resto è stato Rookie of the Year, esce dalla prestigiosa North Carolina e per l'NBA ha una caratteristica nei suoi Phoenix Suns che tu hai ricercato. Si tratta di... Esatto, Walter Davis, nonostante siano passati molti anni ormai appunto da quando lui ha giocato per i Suns, in cui ha passato 11 stagioni, rimane ancora oggi il miglior marcatore di tutti i tempi della franchigia. Quindi, insomma, uomo franchigia, definito. Un atleta che, come ho già evidenziato in precedenza, di classe, di eleganza, e ne parleremo subito dopo la pubblicità in conversazione con Jason Filippi, al quale daremo immediatamente la linea dopo lo stacco pubblicitario per avere una voce in più a questo saluto a The Greyhound of the Parquet. Mi raccomando, restate in frequenza, a tra poco. Groove di oggi, che ricorda con questo accorato saluto un protagonista di fine anni 70 fino alla seconda metà anni 80 di un NBA in piena rivoluzione cestistica, gli anni di Bird e Magic fino all'arrivo di Jordan. Fra loro una di queste figure importanti è stato Walter Davis, recentemente scomparso. Noi siamo in compagnia del caro amico Jason Filippi, che innanzitutto ringrazio e saluto. Buongiorno Jason. Ciao Willy. Ciao a tutti. Walter Davis, come ho già detto con queste brevi parole di presentazione, oltre che essere un protagonista, ha lasciato qualcosa anche a noi. Ne abbiamo parlato spesso nelle nostre conversazioni fino a tarda notte, su immagini, sogni di un NBA che aveva magari altre caratteristiche. È stato da North Carolina nel 1977 prima scelta, esattamente con il numero 5, prima scelta assoluta. Che possiamo aggiungere per iniziare questo dialogo a proposito di The Greyhound of the Parquet? Beh, innanzitutto comunque grande carriera universitaria, è stato, se ben ricordo, anche parte della squadra olimpica americana che ha vinto le Olimpiadi nel 76, se ben ricordo. Comunque un grande giocatore, già all'università faceva entrare il potenziale, paradossalmente comunque è diventato ancora migliore in NBA, perché come spesso capita nei college dinamica tradizione come Duke, North Carolina, anche i più grandi giocatori, dovendo fare parte di un sistema molto rigido, si devono sacrificare, il loro gioco viene spesso sacrificato e snaturato per il bene della squadra. Quindi quando si è trovato nella NBA con un gioco più libero e freelance, è veramente esploso, forse in questo caso anche più del dovuto, ripeto, quinta scelta assoluta al primo giro, quindi non era certo una sorpresa, ci si aspettava grande cosa da lui, però è proprio esploso da subito. Infatti è stato il rookie dell'anno, quindi forse anche meglio del previsto. Come hai detto tu, hai detto la cosa, like The Greyhound era il suo soprannome, Greyhound inteso come il levriero, perché per l'eleganza dei suoi movimenti, veramente un giocatore che in campo aperto era inarrestabile, era proprio bello da vedere esteticamente, grande contropiedista, ma anche bravissimo a muoversi senza la palla, è un giocatore molto, molto intelligente, con degli istinti per il canestro, ma anche istinti per gli spazi, dove andare o ricevere la palla. Questa è una cosa che non puoi insegnare, o ce li hai o non ce li hai, lui sicuramente li aveva. Quindi è un giocatore molto bello da vedere, paradossalmente non ha mai giocato in una squadra da anello, anche se Phoenix comunque ha avuto le buone squadre nella sua carriera, però forse il paradosso è che le squadre con cui ha giocato a Phoenix erano squadre da regular season, squadre che vincevano 50 e più partite nella regular season, ma avevano purtroppo una storia di playoff deludenti, anche se lui personalmente non ha mai deluso a livello di numeri nei playoff, però la squadra sì. Quindi sicuramente, ecco, Walter Davis, i miei primi approcci col basket, sì, Bird Magic, ma anche Walter Davis sono dei primi giocatori che ho amato. Molto sfortunati, perché ai playoff poi costava sempre contro la corazzata Lakers, ma ricordiamo che quella squadra era piena di talento. C'era Alvin Adams, grandissimo pivot, Larry Nance, un'ala pivot veramente tecnica e forse quel periodo anche il miglior atleta che si poteva vedere in NBA, Paul Westphal, Kay Macy, Don Buse, Eddie Johnson, quel Dennis Johnson che era di passaggio prima della prova nei grandi Celtics. E qui l'ennesima cover di Sunny, interpretata oltre che dall'orchestra con George Benson alla chitarra, a proposito di classe. Beh, Lino, mi permetto di dire che hai perso la prima palla a due. Buongiorno Mutu Groove, purtroppo vi devo sgridare, si fa per dire. Il primo novembre è scomparso Bobby Knight, grandissimo allenatore, il profeta della difesa, help and recovery, cioè aiuto e recupero, da Indiana. Invece ti ringrazio perché hai ricordato di fare la sottoscrizione per Charles Jordan. Beh, se ascoltavi la palla a due, Paolo ha detto: purtroppo è un periodo di nefasti saluti. In questo ovviamente c'è anche il grande Bobby Knight, un vero sergente di ferro, un allenatore molto molto grintoso, anche non proprio così molto accondiscendente, ecco, diciamo così. Ricordiamo la sua sedia in campo e tanti altri momenti, però anche tante tante vittorie. Avremo modo di parlarne, e certo, e come. Sì, quei Phoenix Suns erano di transizione, diciamo così, dal momento di Paul Westphal, Dennis Johnson, Alvin Adams, fino ad arrivare poi alla seconda parte, che hanno visto grandi campioni: Charles Barkley, Dan Majerle, Kevin Johnson, Tom Chambers, altra formazione. In quel periodo, in quello stacco, l'uomo franchigia è stato Walter Davis, accompagnato ovviamente, ricordo, un grande centro, James Edwards, ricordo anche atleti vedi un tiratore di Johnson, giocatore fenomenale. Kyle Macy, che abbiamo visto anche in Italia, per me è una point guard un po' sottovalutata, eh. Una squadra, come ha detto Jason, da regular season che dava soddisfazione, poi che cozzava nei playoff contro delle corazzate dei giganti come negli anni 80 ai Los Angeles Lakers. Ecco, per quanto riguarda George Gervin, diciamo, secondo me l'unico nella posizione cui il nostro protagonista andava in campo ad occupare, primo rispetto a Walter Davis. Secondo me nella Western Conference c'era George Gervin e subito dopo, in quel periodo, Walter Davis. Ho voluto portare anche The Iceman e l'importanza di The Greyhound, soprattutto in fase offensiva. Hai sentito l'esperienza per quanto riguarda la prima parte di conversazione con Jason? Mi sto rivolgendo a Pietro, dell'NCAA e com'era strutturata, probabilmente lo è ancora, dove gli atleti, beh, lo stesso Jordan, no, ha avuto dei momenti nell'NCAA dove la stella in realtà è stata Worthy in quel North Carolina. E sai chi era l'idolo di Michael Jordan a North Carolina? Era proprio Walter Davis. Sì, infatti è stato anche modello per colui che ha dato dicotomia alla pallacanestro. Ma l'NCAA la segui anche in questa parte di stagione o l'hai seguita, Pietro? Io, da, come dire, bravo tifoso che sale sul carro, guardo un po' di March Madness, perché sì, oltre al basket, secondo me è molto interessante vedere il tribalismo del college, vedere cosa non fanno in NBA i tifosi, lo fanno appunto nel college. Però non ho l'occhio dello scout, mettiamola sì, così. Perché è veramente stesa anche, tra esatto, l'altro sono tante division e si arriva al nucleo che è il March Madness, in cui di solito facciamo lo speciale. E parliamo di draft. Chi è stata la prima scelta del 77? Te lo ricordi? È stato Kent Benson, pensa a te, che abbiamo visto anche in Italia. Non fu esattamente un grandissimo crack per quanto riguarda la NBA, anzi è stato un po' deludente, andò a Milwaukee. Seconda scelta, Otis Birdsong, guardia tiratrice, New Jersey Nets, che passò per i Kansas City Kings. Poi, già citato da Paolo giustamente, Marcus Johnson, il povero Greg Ballard dai Washington Bullets, anche lui scomparso qualche anno fa, l'abbiamo visto in Italia nella Scavolini Pesaro. E al quinto ordine di scelta del primo giro, quindi prima scelta, Walter Davis da North Carolina ai Phoenix Suns in Arizona. Oltretutto arriva in un periodo che prima ho descritto in maniera generale, ma entrando nello specifico per la squadra dell'Arizona, c'è stato il momento di Phoenix con Paul West, Paul Alvin Adams, e poi quel periodo di fine anni 70 dove arriva Walter Davis, e poi ci sarà in seguito poi Phoenix di Tom Chambers, Kevin Johnson, Dan Meyer, Charles Barkley, che sarà, e lui è stato esattamente in mezzo a queste due realtà e l'ha fatto con grande capacità e grande classe, insomma, è stato veramente importante per Phoenix. Assolutamente, cioè lui era la face of the franchise, come dicono negli Stati Uniti, proprio il volto della franchigia, il volto della squadra, tutte le pubblicità, e si presentava anche bene perché insomma, una persona, sì, un giocatore bello da vedere, ma anche una persona di gran classe fuori. Adesso non voglio non voglio dire cose che possono essere fraintese, però è una persona, comunque è un ragazzo molto intelligente, un ragazzo che nel dubbio comunque a scuola ci è andato per davvero, si è laureato. Faccio un esempio, si può sembrare una cosa stupida che può essere fraintesa, però quando io stava, sua moglie era una donna bianca, ma non certi stereotipi, cioè una donna bianca della sua età, una donna di classe, molto colta, non la ragazzotta volgare che oggi farebbe la influenza su Instagram. Certo, ma ho capito perfettamente. Era rinomato proprio per questa classe distinzione. Aneddoti tipo cioè fuori dal campo, che lui era sempre quello che si fermava un'ora e mezzo a firmare autografi ai ragazzini, quando poteva invece dire: ragazzi, devo andare, mi stanno aspettando, scusate, buonasera, ciao ciao ciao. Invece no, lui si fa, cioè, proprio un modo di fare. Io ho avuto l'onore di conoscerlo tanti anni fa. Mio padre, che ha un passato nel basket, l'aveva conosciuto quando era ancora a North Carolina. E un aneddoto curioso, simpatico: quando i Phoenix Suns vennero nei primi anni 80 a giocare quello che è stato poi il predecessore del McDonald's Open, che è stato il primo ponte di avvicinamento tra basket europeo e basket NBA, vennero a giocare un torneo in Italia, a Milano, Varese e anche a Bologna, i Phoenix Suns. Io ho avuto l'onore di conoscerlo e ovviamente per me è un'emozione, perché ero ancora un ragazzino che andavo alle scuole medie, quindi è stata una grande emozione. Mi ricordo che lui, cioè, quando innanzitutto, cioè, già il fatto che avesse fatto la festa a mio padre, che non vedeva da diversi anni, poi dice: wow, ti ripresento mio figlio, e fa: wow, questo allora Jason qua. Un ricordo bellissimo, cioè una persona che proprio aveva quella certa capacità umana, e si sentivano grande giocatore. Collego quindi anche con Bobby Knight, per ricordarlo che giustamente i grandi college, North Carolina, Indiana, Georgetown, Duke e compagnia, giocavano proprio di sistema, quindi era la squadra prima di tutti, il talento del singolo arriva dopo. Giustamente i talenti puri esplodevano poi nell'NBA, e questo mi ricollega al grande Bobby Knight, che quando fu allenatore della nazionale americana, sì, Los Angeles 84, vincitrice della medaglia d'oro, segò letteralmente dalla squadra gente come Stockton, Malone, Barkley, perché non si inserivano bene nel contesto di squadra, mentre promosse gente come Mullin, Ewing e Jordan, che nel sistema di gioco, uguale a caso, venivano poi da grandi college, ci stavano e come, e quindi vinsero poi questa incredibile medaglia d'oro collegiale di 20 anni contro professionisti del resto del mondo già abbastanza navigati. Per me questa è tanta roba. Letta da George Benson, da uno dei suoi primi dischi, Bad Benson. Allora, vi è questo aneddoto, e sono costretto, non è certo mio costume, in diretta e al di fuori della diretta, diciamo che non sono così oxfordiano, però l'aneddoto me lo impone. Allora, Michael Jordan, prima della finale olimpica, fece trovare sulla lavagnetta dello spogliatoio questa scritta all'entrata di Bobby Knight: e ragazzi, impegniamoci e portiamo a casa questa medaglia dopo tutta la merda che ci ha fatto mangiare Bobby Knight. Quindi già mi fa intendere. C'è anche da dire che Stockton, ma non venivano proprio, lo stesso Barkley, non venivano da North Carolina, Georgetown, Duke, che sono università dove appunto una disciplina agonistica e di gioco oltre che comportamentale era protagonista. 1976, Walter Davis porta a casa la medaglia olimpica, è Rookie of the Year nel 78, è nel first team dei rookie ovviamente, è due volte nel dream team della NBA 78-79 nella selezione principale ed è sei volte inserito nella selezione dell'All-Star Game, quando aveva ancora senso parlare di All-Star Game, Ormai è diventato un festival. No, una pagliacciata. Sì, hai detto. Lo dico io che ho 25 anni, quindi è proprio una pagliacciata. È un circo, che perde interesse. Ma adesso funziona che fanno le selezioni tipo pari o dispari, scegli tu. Ma negli ultimi anni le stanno provando tutte per resuscitare un format che evidentemente sta morendo. Hanno provato. Questa cosa si chiama Elam Ending, dove fondamentalmente non vince più, non c'è più un quarto-quarto, ma o meglio c'è un quarto-quarto che finisce a punteggio e non più a tempo, che crea confusione. Il primo anno è stato interessante, si dice perché era il 2020, anno della scomparsa di Bryant, dice i giocatori si siano impegnati appunto per voler commemorare con un'attenzione sensibile. Io ho guardato anche gli anni dopo. Trash, come direbbero i giovani, trash. Circo Medrano contro Circo Tony, esatto. Ormai si può dire. Leggevo stamani, vogliono provare a fare Stati Uniti contro il resto del mondo per provare a creare un po' di sentimento nazionalista, tanto no, manca di questi tempi il nazionalismo. No, esatto, direi che è attinente, Invece ieri con l'informatissimo Federico Minghini Mingo di Caffè e Paglia mi ha detto: ma la sai l'ultima? Hanno inventato la NBA Cup, che è questo torneo all'interno del torneo, dove ho capito veramente poco, però alcune partite sembra che siano indicate per un torneo, un contest parallelo alla regular season, che con 82 partite sarebbe insomma qualcosa, poi soprattutto trattate in questo modo veramente molto lungo. Tu sei più informato, Pietro, su questo? Su questa NBA Cup provano a fare questo torneo mid season, come lo chiamano loro, per provare fondamentalmente a fare degli ulteriori diritti TV e creare una sorta di attenzione riguardo alla regular season, che poi fondamentalmente di attenzione ne crea poca. Cito lo stesso Lillard, Damian Lillard, uno dei primi 15-20 dell'NBA odierna, che dopo la prima partita del mid-season tournament ha detto: non ci ho capito niente. Intanto ringraziamo Jason Filippi per la conversazione, per l'approfondimento, anche per emozioni personali nell'incontro con The Greyhound Walter Davis, e in questo ultimo segmento entreremo anche un pochettino in certi aspetti tecnici. Ovviamente alcune cose non sempre è così, ma possiamo dirlo: nel caso di Walter Davis la classe non era solo sul parquet. Ecco, questo lo possiamo affermare con grande sicurezza. Grande dispiacere, purtroppo. Aggiungo dal punto di vista tecnico una piccola nota, senza entrare troppo nello specifico: l'intelligenza cestistica, con grande tecnica ma anche grande capacità di intelligenza per leggere bene il mismatch. Ricordiamo che lui sfiora i 2 metri, quindi può capitare che qualche atleta di stazza più esigua debba marcarlo. Lui ha grande capacità, mantenendo sempre una tecnica specchiata di avvicinamento a canestro. Anche questo è una lettura tecnica di Walter Davis, oltre che una mano nelle scelte di tiro precisa, un gioco fronte a canestro, ma anche l'avvicinamento a canestro. Lui mi ricorda un po' oggi DeMar DeRozan per certi versi, perché aveva la carica che all'epoca Walter Davis giocava nell'epoca 3, cioè i suoi anni migliori sono stati 3 tiro da 3 punti, quindi non è che se non fosse un buon tiratore che nessuno tirava da 3, perché prima non c'era, e poi anche qua i primi anni che c'era se si tirava così ogni tanto per tanto per fare, o se proprio si era sotto di 3 a 2 secondi alla fine. Però è un mid range game strepitoso, e quando la gente mi dice però non era bravo a tirare, hai detto ma giocavo in epoca senza io tiro da 3. È sicuramente un giocatore che aveva grande fondamentale, grande tecnica e una buona mano, comunque per me la media sarebbe stato, non dico Steph Curry, ma sarebbe stato un contenitore, nel senso che non sarebbe stato un pallone d'Achille l'eventuale tiro da 3. Quindi avevo un gioco che a me piace di più perché, ripeto, come hai detto tu, sapeva fare tante cose, sapeva sia un grande contropiedista, inarrestabile in campo aperto, ma nel gioco in da campo lui sapeva fare un po' di tutto, era bravo a sfruttare gli smash, giocatore uno contro uno, e comunque bravissimo a segnare, perché avevo questi istinti per il canestro, ma per essere al posto giusto al momento giusto anche. Quindi certo, vedevo il gioco, capivo il gioco molto molto bene. Non ha mai pensato, adesso questo è, intanto che facciamo conversazione, sai, poi noi potremmo parlarne per ore. Lui va a Denver, ha un infortunio poco prima di passare a Denver, poi anche una piccola parentesi a Portland, conclude a Denver. Non ha mai pensato di venire in Italia, scusa, ma... Sì, ma io immagino che gli sia stata proposta, perché proprio in quell'epoca, siamo nella seconda metà degli anni Ottanta, era ancora tradizione per le star dell'NBA a venire a concludere la carriera in Europa, e con orgoglio posso dire che in quell'epoca la fermata era l'Italia, non era la Russia, non era la Turchia, non era la Spagna, no, l'Italia. Era l'Italia, l'unica. L'unica meta possibile, quindi credo che stiamo facendo, quando lui si è ritirato che non aveva più da spendere, tra problemi fisici e problemi personali degli ultimi anni della carriera, credo che non fosse più un'opzione. Certo, beh, resta indubbiamente il ricordo di un cestista e di un uomo veramente di classe, oltre che talentuoso sul parquet, come ho detto, signore anche al di fuori. Io ti ringrazio tantissimo, Jason, per questa conversazione che mi ha anche portato indietro un po' negli anni, quando si passava le serate a parlare di atleti che non erano esattamente Bird Magic, Julius Erving, Karim Abdul-Jabbar, ma figure che meritavano un podio anche loro. Assolutamente. E anche per questo che il Move to Groove è stato voluto in frequenza su Radio Città Fujiko, anni importanti per la pallacanestro, definiti da me di rivoluzione cestistica fino alla normalizzazione, che altrettanto importante, da Michael Jordan fino al 2000, poi sappiamo tutti come sono andate, insomma, le cose. Per cui io ti ringrazio tantissimo di questa conversazione, ci vedremo presto, me lo auguro. Grazie a voi, è stato un piacere, ciao. Italia dell'NBA, praticamente è la Coppa Italia del calcio messa al basket NBA. Già per come ha pitturato i campi per le cosiddette partite di Coppa, meriterebbero di essere fustigati in sala mensa. È tutto un altro mondo, è un'altra cosa, non è ricordo per dire com'era verde la mia valle, che bei tempi, ma la testimonianza ad esempio è anche Pietro, 25 anni, e parla con grande afflato, in maniera molto accurata, di quelli che sono stati i periodi, come definisco io, di rivoluzione cestistica, una prova ulteriore di tutto ciò. Ci lascia un protagonista, sicuramente sarà immarcabile anche nel paradiso dell'NBA celeste, e ne abbiamo voluto dare una testimonianza. Ringrazio tanto Jason per la conversazione e lo aspettiamo per altri momenti di condivisione al Mood Groove. A breve saremo in collegamento telefonico con Marco Santucci. Per me, io seguivo Marco in quanto io tifoso del Latte Sole Bologna, perché io lo ricordo come grandissimo atleta, saltatore, un esterno di quasi 2 metri, grandi capacità sia tecniche che atletiche. Ora lo troveremo per una testimonianza e per una grande sensibilità umana nei confronti di chi ha dato tanto alla pallacanestro bolognese e non solo, cioè Charles Jordan, che è stato anche un tuo personaggio, insomma, Pietro, come mai così giovane? Charles Jordan è stato il primo atleta che mi hai citato. Ho detto, oddio, wow. Perché conoscenze più anziane di me riguardo la pallacanestro mi hanno detto, ma lo sai che in Italia prima di Michael Jordan c'era Charles Jordan? E lì ti sei informato ed è stata una grande sorpresa. Beh, ne sapremo di più a breve, dopo la pubblicità, al Mood Groove di oggi, edizione straordinaria. A tra poco.